noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Col mancino in mezzo, 3-2 Roma, l'ottisima sul primo palo, Dzeko ancora, Dzeko e la Roma la ribalta. Durante la gara, anche quando eravamo sotto di un gol, vedevo una squadra che stava interpretando al meglio quello che gli avevo chiesto in precedenza. Abbiamo preparato la partita cercando di andare a prendere i loro centrali sempre, uscendo anche con gli esterni, invitandoli a giocare internamente con grandi aggressioni. C'è il rammarico perché quando giochi così certe partite le devi portare a casa. Douglas Costa, eccolo subito il suo cross profondo sul secondo palo, subito assist di Douglas Costa, Mario Mandžukić, Juventus in vantaggio. Oggi l'ho persa perché all'87esimo bisogna gestire meglio le partite, quella fa parte della prestazione, io devo analizzare quella, come all'ultimo cross non va concesso, quindi alla fine del calcio quello che conta è il risultato. Bravi, indovinato. Una serata mica male per l'italiano in Champions League, mica male davvero. Beh, grande nervosismo in casa Juve nonostante il 2-1 sullo Sporting Lisbona, all'insegna e nel segno di due giocatori fondamentali che si chiamano Pjanic e Mandžukić per la signora. Quanto alla Roma, il nervosismo è quello di Antonio Conte dopo questo 3-3 in rimonta e anche fortunoso, vogliamo ammetterlo una volta tanto, contro della Roma sul prato del Chelsea. Poi l'Atletico Madrid fa 0-0 con il Karabakh e le carte si sparigliano. Buongiorno Pierluigi Pardo. Come va? Tutto bene? Benissimo. Pardo che ha raccontato ieri sera al mondo intero, italiano quantomeno, la partita della Roma. Allora, rapida sintesi, che ero mai visto? Io mi sono un'ottima Roma, infatti anche una grande Roma, con alcuni errori individuali che hanno condizionato tanto la partita. Io sono tra quelli che pensa che la Roma debba essere anche un po' arrabbiata, perché poteva vincere, doveva vincere, meritava di vincere dal punto di vista del gioco sicuramente. È chiaro che gli errori sono stati tanti e quando ci sono gli errori poi è difficile, sinceramente è molto molto difficile secondo me poi sistemare le cose, quindi molto positiva la reazione, non c'è dubbio, il risultato è buono anche alla luce del risultato del Karabakh con l'Atletico Madrid, davvero impronosticabile. Ho un po' la sensazione che sia stata una grande occasione persa perché la Roma poteva vincere, la Roma poteva veramente vincere. Hai guardato Conte negli occhi dopo la partita? Sì, Conte, io ho avuto una sensazione di un Chelsea un po' in difficoltà, non so dirti se questa difficoltà passerà nei prossimi... Scusami, ma sì. Un Chelsea un po' in difficoltà, ma anche un Conte un po' in difficoltà, perché questo maliziosamente mi interessa. Sì, ho anche parlato un po' con David Luiz post partita, ma non diciamo che quel famoso baffa che gli ha mandato tra l'altro in lingua italiana, abbastanza clamoroso al momento della sostituzione, non è voluto tornare su quella cosa, quindi non ha fatto minimamente polemica, roba d'adrenalina di partita. Però è chiaro che insomma il Chelsea in questo momento non ha un gran gioco, per usare un eufemismo. Ieri ha fatto una partita di attesa e ripartenza, poi certamente ha dei giocatori, Hazard su tutti, che possono fare la differenza e farti male in qualsiasi momento, però sinceramente ripeto, io ho visto una differenza tecnica. No, io ho visto la differenza tecnica tra due squadre, la differenza di idea di gioco. Io ho visto, forse vedremo, soltanto il tempo ce lo dirà, i primi vinciti di una grande Roma. Ho visto la squadra di Francesco giocare a pallone veramente molto molto bene. Poi qualche interprete non è sempre all'altezza, cioè i gol la Roma se ne è fatti praticamente da sola, con tre errori di concetto, grave il primo di Juan Jesus, grave il secondo tra Gonalon e Bruno Perez, gravissimo il terzo, più grave di tutti, perché prendere un gol a difesa schierata da uno che non è un gigante sul 3-2 è veramente imperdonabile. Però sul piano della manovra, del gioco, della mentalità, ho visto ieri una bella squadra, e parlavo anche con Monchi a fine partita. Io credo che una chiave sia la fiducia, la consapevolezza. Contro il Napoli abbiamo visto per 60 minuti la squadra bloccata, merito ovviamente anche del Napoli che ti mette in grande difficoltà con questo possesso palla estenuante, però la Roma era come un po' in soggezione. Ieri può essere stata una partita che può aver sbloccato certi meccanismi mentali, può aver dato ai giocatori un po' più di consapevolezza, sì, della loro forza. Sì. Allora sentiamo, andiamo sull'altro campo, sull'altro fronte, quello bianconero. Sentiamo cosa ha detto un Allegri, guarda caso, come ho detto prima, un po' nervoso dopo questa vittoria soffertissima, oltre ogni previsione, contro Sporting Lisbona. Stasera avevamo delle difficoltà, ma l'importante era portare il risultato a casa. Molto semplice. It's simple. Non ci stiamo preparando per niente. Io mi diverto, ma io mi diverto molto. Voi non avete idea di quanto io mi possa divertire a sentire e a leggere dopo le partite. Perché immagino voi quando a seconda di quello che succede cambiate, a seconda se uno fa gol o no cambiate, uno da 7 gli date 5, quello è bellissimo, da 4 gli date 8, capito? Fate serie una volta, dai. Ma io mi diverto, guardate che io mi diverto molto, anche noi siamo disperati, no, ma io mi diverto più di voi, voglio dire. Il lunedì, domattina quando leggo mi diverto un sacco. Mica male Acciughino, discretamente incazzato. Sì. Una delle più interessanti conferenze stampa che ho sentito negli ultimi tempi in casa Juventus. Sì, allora, ha ragione l'idea di principio. Detto questo, è nel mondo del calcio da 30 anni e sa benissimo che le cose stanno così, anche perché il calcio per sua stessa natura, lo abbiamo detto mille volte, non ti dirò stavolta che è liquido, è anche liquido, ma è soprattutto uno sport di episodi, quindi è evidente che l'errore individuale condiziona la partita, perché se, tanto per tornare alla partita da Roma, Juan Jesus fa quell'errore o Bruno Pérez fa quell'errore, è ovvio che quella lì è una macchia che ti porti dietro per buona parte della gara, così come se fai una prodezza. Il famoso attaccante che dorme per 80 minuti e poi si sveglia e segna, è ovvio che il voto sia alto, perché il calcio è uno sport di episodi, non è uno sport di regolarità, soprattutto a ottobre, e per chi deve arrivare a primavera. Pierluigi, amato basket, dove poi se fai 25 punti e fai 9 su 11 al tiro, alla fine conta anche se pure lì ci sono ovviamente dei momenti importanti col pallone che scotta, però è uno sport più di regolarità, quindi Allegri questa cosa la sa, il nervosismo indubbiamente è abbastanza interessante, cioè fa capire che la misura è colma probabilmente, no? Cioè, perché Allegri è uno abituato a drammatizzare sicuramente di più. Sì, viene a vedere Armani Fenerbahce stasera, dopo la presentazione. Stiamo prendendo una cena di famiglia per dopo la presentazione del romanzo, tra l'altro chi è a Milano vuol venire, ovviamente ingresso libero 18:30, Mondadori Uomo, grazie della marchetta, sei iscritto. No, figurati, vengo, poi vado a vedere l'Armani, a meno che non mi inviti a cena con il tuo nome e tuo papà. Sta molto bene, magari scappo con te, perché stasera c'è Gigione, sarebbe bello, insomma, sarebbe bello vederla. So anche 10.000 persone, dai, se non ho letto male, no? Dai, porto il casco per te. Parlo io con mamma e papà. No, senti, torniamo un attimo ad Allegri prima del traffico e prima di sbroccare totalmente. Discutevo con Giorgio De Luca, che mi diceva da buon tifoso del Napoli, quando la Juventus comincerà anche a giocare a pallone... Quando comincerà a giocare a pallone? La Juventus gioca a pallone, secondo me. Secondo me, giocare a pallone per una grande squadra a ottobre è il discorso di cui sopra, cioè sì. episodi fuori classe, colpo che ti fa vincere la partita, per tutto il resto ripassare più tardi. Guarda, la Juventus gioca a pallone, l'abbiamo fatto mille volte questo discorso, ha delle vette estetiche che sono probabilmente inferiori alle vette del Napoli, e secondo me nel passato, nel recente passato, magari anche della Roma, ma è una squadra che gioca bene, non è una squadra che gioca male, è un falso storico dire che la Juve gioca male, anche perché certi risultati giocando male non li ottieni. Poi ci sono squadre magari che ti innamorano di più dal punto di vista proprio della qualità del gioco e squadre che invece hanno delle altre qualità. La Juve degli ultimi anni ha avuto tra le sue qualità migliori soprattutto la capacità di non mollare, l'atteggiamento, lo stare in partita sempre mentalmente, queste sono cose importantissime per una squadra, non sono cose brutte, sono cose due belle e spesso decisive per vincere, quindi io sono d'accordo, la Juve non gioca male assolutamente, poi sicuramente questi sei anni di vittorie in campionato, magari rispetto ad altri momenti della storia del calcio, penso al Milan di Sacchi, penso al Barcellona di Guardiola, va bene, sì. Al Barcellona magari fanno meno filosofia, fanno meno opinione, sono meno diciamo iconici da un punto di vista di storia della letteratura del calcio, ma chi se ne frega, insomma. Bravo, alla fine ha ragione Allegri. No, ma io sono d'accordo con Allegri, alla fine in questo momento conta il risultato. In questo momento per la Juventus conta il risultato. Mi sorprende che insomma, che tra virgolette si meravigli o che faccia trasparire, certo, questo nervosismo per la cosa più vecchia del mondo. Cioè sì, noi giornalisti cambiamo i voti, ma non per cattiveria, cioè gli osservatori, i tifosi cambiano i voti anche a seconda del risultato. Ma è chiaro, è chiaro. Calcio, giusto o sbagliata che sia. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi. Ciao stasera. Allora, adesso ci fermiamo per il traffico, poi torniamo con tutti questi argomenti e con voi. 800240024, numero verde. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Sicuramente mi devo assumere io la responsabilità di questa scelta di cambiare, però tante volte scegli delle soluzioni differenti per cercare di ovviare a delle soluzioni di emergenza, a delle situazioni un po' particolari. Volevo rinforzare il centrocampo, ho cercato di cambiare la posizione a David Luiz, penso che questo non abbia pagato sinceramente. Questa è l'altra faccia della medaglia di ieri sera a Stamford Bridge, ovviamente l'avete riconosciuto, Antonio Conte non vive un momento brillantissimo. Ha una squadra forte ma corta. Federico Pastorello, principe del foro dei procuratori, è nostro amico. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ti uso come giornalista, eh? Eri a Stamford Bridge. No, sì, cioè che ero della partita. Eri della partita ieri sera a Stamford Bridge. Allora, raccontami la partita vista con i tuoi occhi, questo 3-3 della Roma che fa classifica, ma fa soprattutto morale, fa autostima. Certo, il pareggio del Chelsea secondo me si poteva evitare. Sì, diciamo che al di là del fatto che sicuramente il Chelsea non abbia fatto una delle sue migliori partite in termini di brillantezza e di gioco, perché le squadre di Mister Conte ci hanno sempre abituato a un calcio ovviamente molto creativo e offensivo, devo dire che meriti delle difficoltà del Chelsea di ieri sono anche da dare alla bravura della Roma, che effettivamente ha fatto una partita per me importante in termini di personalità, di tentativo di fare gioco, di cercare di attaccare per portare a casa il massimo risultato, quindi senza nessun tipo di timore reverenziale, che insomma magari nel momento in cui vai a giocare a Stamford Bridge magari potresti avere. Quindi credo che la squadra di Francesco ieri abbia interpretato la gara veramente nel migliore dei modi. E sì, poi ieri devo dire due su tutti, Zeko, che vabbè, ovviamente avendo fatto questi mamma due gol, mia, mamma mia, ma ha fatto una partita per 90 minuti di un'intensità. Pensa, Fede, che c'è ancora qualcuno che lo discute, sai? Vabbè. Se guardasse la partita, il mondo è bello ieri, perché è vario, sì. E Kolarov che ripeto, mai devo dire, ha sorpreso anche me, nel senso che anche lui è come se avesse 22 anni, insomma, cioè per intensità e forza, vabbè, ovviamente la personalità sua, il carattere suo, è un leader, quindi questo sicuramente, ma questi due hanno fatto veramente la differenza ieri. Sono d'accordo, Federico. Senti, parliamo un po' di allenatori, di Conte e di Allegri. Conte non sta vivendo un momento brillantissimo al Chelsea, non l'hanno accontentato sul mercato, dicevo prima, ha una squadra forte, di grande qualità, ma corta. Cosa gli regaleresti? Purtroppo sia un po' il problema che ha avuto anche l'anno scorso, effettivamente, nel senso che non appena anche un paio di infortuni, effettivamente poi si vede costretto a fare questo tipo di cambiamenti anche tattici, che a volte purtroppo costano. Quindi secondo me lui in questo momento avrebbe bisogno sicuramente di qualcosina sugli esterni, perché effettivamente non ha l'alternativa ad Alonso, che per fortuna sta facendo bene, e ancora appunto sta bene fisicamente, già dall'anno scorso ha fatto una stagione importante, e poi magari un uomo anche in mezzo al campo ed un'alternativa, diciamo, a Williams non è poca roba, Fede, non è poca roba. Lo so, ma io credo che almeno tre innesti siano necessari. Sì, poi, bisogna parlare con la signora. Vedo anche con appunto anche davanti, effettivamente Morata sta facendo veramente bene, però è la campanella d'allarme, un po' l'infortunio che ha avuto, perché evidentemente non è abituato a giocare così tante partite una dietro l'altra, quindi bisognerebbe gestirlo in maniera diversa, però ovviamente non avendo grandi alternative lo deve utilizzare tutte le partite possibili. Federico, lo chiedo a te Federico Pastorello, che lo fai di mestiere, come si chiama la signora del Chelsea, quella che comanda il Chelsea, non mi ricordo, Marina Veranovskaya. Perfetto, Marina Federanoskaya, perché non caccia il grano? No, ma non è questione che non caccia il grano, è questione che chiaramente il Chelsea non ha diciamo le revenues, quindi non ha il fatturato del Manchester United, del Manchester City, del Paris Saint-Germain, del Bayern, quindi diciamo che oggi col financial fair play comunque hanno dei limiti, indipendentemente dalla volontà del patrono di spendere, quindi questo è un limite purtroppo che condiziona un po' il mercato, quindi ma sono sicuro che a gennaio cercheranno di intervenire assolutamente. Altro allenatore, altro giro di Walzer sulle panchine. Allegri, ieri sera eri a Stamford Bridge, non eri a Torino, però saprai quello che è successo, avrai visto, sì, tutto. Seguivo, sì. Ecco, assolutamente. Un Allegri che abbiamo sentito prima nervosetto, ha ragione o no? Che sta succedendo secondo te così da lontano alla Juventus? Sta succedendo che comunque dopo un ciclo così lungo di vittorie e comunque costruiti sullo zoccolo di giocatori, è normale che qualche piccolo scricchiolio ci possa essere. Credo che sia assolutamente del tutto umano e normale. Detto questo, comunque stanno là davanti in campionato, non è che sono a 8 punti dalla vetta, quindi io credo che la Juventus quest'anno è ancora la candidata per vincere il campionato, indipendentemente dal momento. Però io credo che un po' più di del Napoli, mentale, Federico? Più del Napoli? Ma diciamo che io sono un estimatore di Sarri incredibile, perché per me è uno degli allenatori in assoluto più bravi che c'è in Europa, non in Italia, e devo dire che probabilmente per la legge dei grandi numeri prima o dopo qualche cosa deve succedere, quindi sicuramente il Napoli è insieme all'Inter, secondo me appunto Inter, Napoli e Juve quest'anno hanno stesse possibilità di vincere addirittura il campionato. Metti l'Inter, sì, assolutamente. Saranno contenti i tifosi interisti? Per la stessa ragione per cui metto Napoli, nel senso che Luciano Spalletti per me è un altro grandissimo allenatore a livello europeo, quindi diciamo che secondo me loro potrebbero fare la differenza. La Juve cosa c'è di contro? Appunto che credo che dopo un ciclo di vittorie così ampio, così lungo, un po' di fatica mentale ci sia, però ripeto, la società è forte, i giocatori sono i campioni veri, e quindi credo che, ripeto, fino alla fine Last Dance però, Federico, Last Dance, ultimo ballo per questo gruppo che finisce con i mondiali, da Buffon, Barzagli. Io addirittura ho la sensazione, non so se condividi, che Allegri stia ballando una stagione di troppo, cioè non so se sarà l'uomo, no, ma sto divagando, non so se sarà l'uomo della ricostruzione della Juventus che è già cominciata, però ho la sensazione che questa Juventus, e forse la Juventus di Allegri, sia finita quella notte in cui perse la Champions League con Real. Sicuramente perdere così due finali dietro fila fa effettivamente male, nel senso che chiaramente psicologicamente, infatti quando ti ho detto che mentalmente sono stanchi, è probabilmente che quando tu corri così tanto e alla fine arrivi a portare a casa sicuramente un obiettivo importantissimo come lo scudetto, però perdi due finali in tre anni, è chiaro che questo ti fa male, ti fa male, ma il risultato sportivo è arrivarci in finale, il risultato poi per gli almanacchi, quello che conta è alzare quelle due orecchie, no? Prendere quelle due orecchie. Purtroppo, Purtroppo per loro sì, purtroppo per loro sì. Sì, comunque alla Juventus, a questa Juventus in questo momento manca qualcosa, chimica, motivazioni, però sì, per la Juventus è anche ottobre. Mentale un po', però ripeto Allegri ha gestito il post Conte in maniera eccellente. Ci sono dei giocatori, ripeto, che hanno tutt'altro voglia che di arrivare secondi, quindi vuol dire, io credo che la Juve adesso in questo momento magari sia un po' meno brillante, però ripeto, perché magari sono un po' meno brillanti alcuni giocatori chiave, ma certo, questo certo. Il campionato è appena iniziato. Certo. Grazie Federico, buon lavoro. No, grazie a voi. Grazie. Ciao a Federico Pastorello. Allora, prima della borsa c'è Angelo dalla provincia di Milano, buongiorno. 800 24 00 24, tutti convocati. Buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Cioè, volevo parlare per quanto riguarda Allegri, no? Due argomentazioni. Che è un po' nervosetto, si vede, perché lui compie degli errori, no? Errori secondo il mio modo di vedere, modesto modo. Duraro, ma dove lo mette a giocare? Perché lui gioca con un uomo in meno, già c'è qualcuno che gioca in meno. Acciaccati e tutto, poi mette Sturare a fare il terzino destro, magari vuole scoprire l'acqua calda, che magari gli va bene, butta lì. Chi mettiamo in quello spot di terzino destro? Hanno comprato De Sciglio, è rotto, fare, è infortunato, e non infortunato. Ha portato Lichtsteiner, che forse è l'unico che meriterebbe di giocare. Di quello possiamo parlare, ma De Sciglio è infortunato, e quindi, no, so, e quindi so deve inventarsi però qualcosa lì. Bisogna inventarsi qualcosa, ma non mette Sturara, però. Chi mette? Proprio, chi mettiamo? Che è una frana, proprio. Non è una frana, è un giocatore fuori ruolo. Chi mettiamo? Quadrado, come suggerisce qualcuno, a fare no, l'esterno ma basso. Ma mette qualcuno di ruolo, pure chi sia, ma mettilo di ruolo. Fai giocare a Rugani, Rugani è un difensore. Fai giocare sì, a destra. Sulla destra così. A destra, Rugani. Metterà, ma se lo inventa, lo fa giocare, perché quanti giocatori da destra giocano a sinistra? Ok, va bene, stiamo parlando di giocatori nel loro ruolo, i giocatori fuori ruolo. Rugani poi, a destra sarebbe fuori ruolo, come Sturaro. Volevo dire, per quanto riguarda la Juve, che gioca, non gioca, nervoso, non nervoso, il meglio Napoli. Voi giornalisti dovreste mettere d'accordo, perché l'altro ho sentito un'intervista di un faremo certo un giornale, Caligaris, il Premium, mi sembra, sport, sì, una cosa del genere. Sì. E lui dice Massimo che Caligari, mio amico, sì, dica. Sì, sì. Lui dice che segue, cioè la Juve ha detto che la partita fatta contro al Benfica in questo preciso momento, no, diciamo, è la partita più bella più bella giocata dalla Juve che ha giocato negli ultimi 3-4 anni, ha citato con lo Sporting ieri. Sì, l'ha detto Caligari, ha detto che la Juve in questo periodo storico, diciamo, fino a ottobre, tutte le partite che ha giocato dall'inizio del campionato fino a ottobre, dice che è stata la partita migliore che abbia giocato la Juve, perché ha elencato la partita contro alla squadra greca che venne eliminata e via così, ha elencato tante partite, e se andiamo ad analizzarle, è vero. Andiamo ad analizzarle quelle partite. Secondo me valgono le parole di Allegri, Angelo. Valgono le parole di Allegri. Questa partita era importante portare a casa 3 punti in funzione della classifica. La Juve l'ha fatto non nel miglior modo possibile, con un po' di fatica e con Mandžukić alla fine. Con 2 giocatori importantissimi, peraltro, guarda caso, Pjanić e Mandžukić. Borsa. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20. Manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. From España, Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, signor Ricci. Allora, tra poco parliamo di Spagnolo, Barcellona, vari temi, anche di allenatori che conosci bene che sono passati di lì e che stanno vivendo un momento mica male. Adesso sono in Inghilterra, uno si chiama Guardiola e l'altro Mourinho, si guardano dalla finestra uno con l'altro a Manchester. Però prima, Phil, rispondiamo a Claudio e Michele insieme. Ti va? Vai. Vai. Claudio, buongiorno. Buongiorno, ciao, sono Claudio, grazie alla convocazione. A te. Premetto che io tifo Bologna, volevo parlare di Allegri, perciò parlo da persona neutrale. Sì. Secondo me, ieri è stato furbo Allegri, perché secondo me non era un nervosismo vero. Lui l'ha fatto per cercare di spostare le critiche verso di lui, proteggendo la squadra, sapendo che secondo me ha proprio dei problemi strutturali la squadra, che si poi si collega alla partenza di Bonucci, perché se ci fai caso i gol che hanno preso, bene o male, sono tutti sulla parte centrale. Basta che l'attaccante o il centrocampista che si inserisce riesce a far spostare uno dei due centrali, non c'è più chi va a fare la copertura. Sì, sì. Bonucci è diventato un problema per due, per il Milan perché non sta rendendo per quanto previsto e per quanto pagato, forse direbbe qualche malizioso, per la Juventus, perché è evidente che in questo momento, che è anche di difficoltà dal punto di vista dell'organico, del personale, si nota l'assenza di questo giocatore. Ho detto bene, Ricci? Sì, assolutamente, mi sembra esattamente questo, un problema per due, un buon titolo. Buon titolo. mi viene alla Mourinho così, insomma. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, saluti anche a Ricci, Bardo, Genta. E io chiamo da Roma, e quindi mi faceva piacere condividere una mia riflessione su Di Francesco in particolare, senza entrare, diciamo, nell'analisi tecnico-tattica di come gioca. Secondo me una dei suoi punti di forza, che alla distanza sta un po' uscendo, è la gestione del gruppo che lui ha. E mi spiego un attimo, cioè un Gerson messo ieri a Londra col Chelsea alto a destra. Secondo me Di Francesco è riuscito a convincere sia i giocatori nella loro testa che anche buona parte di noi tifosi che tutti i ragazzi che stanno nella rosa possono giocare le partite. Quindi anche Gerson, mentre quando Spalletti lo mise a Torino fece molto scalpore, oggi quasi non se ne parla, perché comunque lui l'ha dosato piano piano, ce l'ha centellinato, così come Gerson, Perez piuttosto che Juan Jesus, che ieri sicuramente hanno fatto i loro errori, però hanno comunque tenuto 90 minuti a Londra, che non è sì, da poco. Sì. No, non è da poco, ieri Roma ha fatto una grande partita a Londra contro un Chelsea che in questo momento è però in difficoltà, Filippo. Anche se io l'ho visto molto bene qua al Wanda contro l'Atletico, forse perché l'Atletico è ancora più in difficoltà. Esatto, buona notizia per la Roma, eh? Esatto, sono passate solo due settimane e a me qua il Chelsea era piaciuto un sacco. Certo, poi dopo invece in Premier League si è sgonfiato, ieri è andata come andata, quindi evidentemente è un momento difficile un po' per tutti. Invece la Roma secondo me ha preso una buona piega, e io a questo forse potrei aggiungere alla disamina di Michele anche l'effetto positivo di Monchi, che non è solo un direttore sportivo. Io questo lo dico perché lo conosco bene, la persona è una persona molto positiva, al di là dei meriti o meno sul mercato, però all'interno di un gruppo, di una squadra, è un elemento importante all'interno proprio della struttura, la vicinanza tra staff tecnico, dirigenza e giocatori. Certo. Ha un ruolo per me positivo. No, certo, mi sembra tra l'altro che sia entrato anche con il giusto piglio nella Roma, sì, facendo il mercato e gestendo il suo potere, tra virgolette, nel modo corretto. Sì. Filippo, andiamo su un altro argomento che mi sta a cuore di più. Che succede dal punto di vista politico in Spagna? Perché mi sembra stiano succedendo un casino. Ecco, sì. La definizione è questa. Partiamo dall'attualità, no? Per cui possiamo anche un po', perché poi tanto si torna al calcio, però l'attualità dice che sabato il governo spagnolo dovrebbe applicare questo articolo 155 che praticamente revoca l'autonomia alla Catalogna, quindi una decisione storica mai applicata, per cui già questo ovviamente crea una tensione mostruosa. Detto questo, possiamo tornare al calcio, visto che siamo in una trasmissione sportiva. Io ieri ero al Camp Nou e quello che ho visto insomma è preoccupante. Il Barcellona è schiavo della sua storia. Se tu passi 40 anni a dire che sei Mesque un club, che sei anche la politica, che sei l'esercito disarmato della Catalogna, al momento del conflitto l'esercito disarmato deve scendere in campo. Esatto. Ed è questo, siccome Bartomeu è catalano ma non indipendentista, è in difficoltà. E adesso è praticamente, ieri è stato accusato di essere eccessivamente tenero, di non essere sufficientemente schierato, hanno impedito l'ingresso allo stadio dei due dei grandi striscioni che devono essere dedicati ai due Jordis, no? Jordi Sanchez e Jordi Quichard, che sono i due presidenti delle associazioni pro indipendenza, no? Omnium e Associazione Nazionale Catalana, e questo ovviamente è stato visto come uno sgarbo gravissimo a quella che è la storia del Barça. Però sì, qui arriviamo a un altro problema. Però sai Phil, io condivido abbastanza la posizione del Pueblo Blaugrana, perché hai ragione. Allora, se Musk è un club, se Piqué fa la bandiera, discorso che abbiamo fatto l'altro giorno dell'indipendentismo, allora o lo fai a parole o lo dimostri con i fatti. Esatto, però qual è il problema? Che arrivi a una decisione importantissima, perché che cosa gli dici a Messi? Che vai a giocare col Terrassa e con lo Spitalet? Perché questo è un po' il rischio che si corre. Cioè, se il Barcellona, il giorno del referendum, no? Il primo ottobre, io ero lì, questi decidono di giocare a porte chiuse. Perché? Perché se vanno in campo, era già deciso che ci sarebbe stata invasione, la partita sarebbe più o meno sarebbe stata sospesa, e comunque, se non andavano in campo per protesta, perdevano 6 punti. Non hanno avuto il coraggio di farlo, cioè non hanno il coraggio di buttare via una Liga e magari addirittura mettere a rischio l'ingresso in Champions o la partecipazione alla Champions, quando hai già presentato un fatturato per il prossimo anno, previsione di ingresso 897 milioni di euro. Sì. Cosa dice agli sponsor, cosa dice a Messi, che è in scadenza di contratto, tra l'altro, perché c'è sempre questo problemino. Che gli dice all'argentino, dice come tu sei catalano? Cioè qua c'è una storia da raccontare che è stata citata tante volte, però quando arriva la famiglia Messi, no? Che lui viene prima col padre, poi si porta la madre, la sorella, arriva dei fratelli, e a un certo punto la sorellina, che è più piccola, dice alla madre, si lamenta e dice scusa, ma tu mi hai detto che qua parlavano la nostra stessa lingua, e invece non è vero. E la mamma e la sorella se ne andarono, tornarono in Argentina. Questa, stiamo parlando dei primi anni del 2000, 2001, 2002, e adesso nel 2017 arriviamo un po' a reiterazione di quell'episodio. Perché adesso qua c'è, cioè se davvero la Catalogna perde l'autonomia, quindi si arriva anche a una possibile, diciamo, un possibile conflitto, insomma, perché bisogna vedere come si reagisce. E il Barcellona dove sta? È lì, certo, in mezzo, certo, ed certo. È sballottato, certo. Bartomeu, che non è indipendentista, è in una situazione di grave crisi. Ma il problema è quello che è successo prima, perché se tu ti ergi a bandiera, no? Se tu fai la bandiera, Musk è un club, Musk è un jugador, nel caso di Piqué, allora la bandiera deve sventolare quando c'è il vento, non quando conviene a te. Questo lì l'anima catalana. Sai, è chiaro, c'è Piqué, poi c'è Busquets, Jordi Alba, e in compenso poi c'hai Guardiola, se vogliamo ti conduco a quello che voleva sì, parlare. Sì, no, ma è un discorso che, infatti è un discorso che facciamo subito dopo il traffico, concludiamo invece questo politico. Dico, Guardiola perché... da Manchester soffia sul vento, però chiaro, è abbastanza comodo per lui, sta lì al City con gli sceicchi che gli comprano qualsiasi sì, giocatore, sì. È pieno di soldi, e dice no, però mi raccomando, indipendenza per tutti, dico allora... Insomma, per cui la situazione per il Barça è molto molto critica, è molto difficile, non so come va. Non so come va a finire, è abbastanza imprevedibile, e io continuo a guardare con una discreta apprensione quanto succederà 2 giorni prima di Natale, cioè il confronto con Real Madrid, però questo lo scopriremo vivendo. Ma manca un sacco, 2 mesi può succedere tutto, perché qua le cose vanno via veloci, no? Perché vuol dire, lunedì c'è stato il primo scambio di lettere tra Puigdemont e Rajoy, oggi il secondo, sabato c'è il 155. Insomma, è tutto molto rapido, certo. vediamo come cosa succederà. Allora stai lì un attimo, sì, un attimo, sì, traffico 800240024, torniamo subito. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Professor Ricci, le faccio sentire una cosa, visto che è un suo amico. Allora, Guardiola, l'altra sera, dopo la partita con il Napoli, poi mi dà una lettura di queste parole piene di miele. Lo facciamo risentire. Shakhtar è fortissime e Napoli è fortissime. Guarda, io quando faccio complimenti a una squadra, a Napoli, perché me la sento. Se voi pensate che lo faccio per paraculo, per stare bene, dimenticatelo. La sento così. Io so oggi che abbiamo vinto a una squadra straordinaria. Se tu non stai al livello che noi abbiamo stato, oggi la gara non si vince, come le altre squadre che hanno vinto. Ma in Champions League, Sharta, campione d'Ucraina, ci sono tantissimi bravi giocatori. Ma se voi pensate che lo faccio per dirlo, è il vostro problema, non il mio. Tu cosa pensi? Paraculo o no? No. L'ha ripetuto ha detto in tutte Napoli le lingue. È la squadra più forte che ho mai visto sul globo terracqueo da giocatore. Sì, quello l'ha detto in inglese. Si è ripetuto varie volte perché ho visto un clip in conferenza stampa, uno invece nella flash in inglese e ora questo nella flash in italiano. No, non è. Per me ci crede. Ricorda sempre Mourinho quando fa queste cose, no? Sembra sempre un po' Mourinho, che in realtà i due sono, per me sono identici, io l'ho sempre sostenuto, no? Però ma detto identici, questo, oppure sì, opposti, identici. Diavola no, passante. Si toccano, sono uguali. Si toccano. Non è paragone, no, per lui ci crede, fa un po' di teatro, appunto, come Mu direbbe. No, ma a me il teatro piace, mi è piaciuto un sacco quello di Sarri della vigilia, come ben saprai, lì è sì, senza le parolacce, io sono contro le parolacce. Cristiano, guarda che chiamo Cruciani, eh. Sta attento perché chiamo Cruciani. Allora faccio il bravo anch'io. Continua a parlarmi di Guardiola. Questo City gli assomiglia molto. Sta diventando la sua creatura. Sì. Ci ha messo un anno ed è giusto, perché voglio dire, comunque arrivare nel campionato inglese è molto complesso, perché comunque è un altro mondo, e poi voglio dire, far fare a certa gente il gioco che vuole lui era molto complicato. L'anno scorso per me non aveva i difensori adatti, e quest'anno a suon di milioni si è rifatto la squadra un'altra volta e ha creato le basi per fare quel gioco che è meraviglioso, che aveva creato al Barcellona, ci ha provato anche al Bayern. Poi se uno guarda come è finito Ancelotti, i tre anni di Pep possono anche essere rivalutati, comunque ha vinto i tre campionati e tre semifinali di Champions. È mai stata la sua squadra, Filippo. No. E questa invece il City lo può diventare, perché in questo gli inglesi paradossalmente forse sono meno impermeabili, mettiamola così, dei tedeschi. Mm. Ci sono già stati dei momenti eccezionali, il secondo gol allo Stoke, quello che parte col colpo di tacco del terzino, 15 tocchi e arriva in porta, è meraviglioso. Quello si vedeva, era il Barcellona di Xavi e Iniesta, e lo fai con giocatori che non tutti sono all'altezza di quel Barça. Anche c'è Gabriel Jesus, che a me fa impazzire, De Bruyne che sta giocando a livelli da meraviglioso, David Silva e compagnia cantante, senza dimenticare Agüero, che però reduce senza Messi senza Messi e senza Xavi e senza Iniesta, che al momento erano i tre migliori giocatori del mondo probabilmente. Io in questo, come dire, io posso criticare Guardiola per altri aspetti, però in campo l'ho sempre considerato un fenomeno. A me quelli che dicevano si deve misurare con altre mi hanno sempre fatto un po' ridere. Si è misurato, in Germania è andata abbastanza bene, per alcuni male, lì è. Adesso con l'Inghilterra il primo anno è così, però vediamo come va a finire, perché poi alla fine io lo vedo più, come diceva lo vedo Allegri più da fronte ieri, interno che da fronte internazionale, però questo lo scopriremo. Risultati, come dice Allegri, no? Chiaro che conta i risultati. Un'ultima cosa. Dalla finestra Guardiola vede Mourinho, la casa di Mourinho. Altro Mourinho anche personaggio bene, che conosci bene. Sì. Quella squadra assomiglia a Mourinho invece. Sì, no, hai visto l'altro giorno con Liverpool, praticamente un catenaccio, non volevano quel punticino, se lo sono presi in maniera orrenda. Poi fa ridere perché un po' si dimentica. Allora, adesso abbiamo 2 minuti e mezzo e è tardi per fare della filosofia, ma questa cosa mi manda in bestia. Allora, il bello del calcio è quelli che giocano bene, quelli che giocano male. Io dicevo prima, che ridi, l'Inter di Mourinho era bella da vedere, No, infatti va benissimo. Lo sai che io ormai sono spagnolo, quindi mi permetto di dire certe cose. Vergogna. Di fare l'edonista. E tu quindi puoi anche sputarmi in un occhio, se vuoi, in maniera benevola. Però fa parte del gioco, insomma. Comunque Mourinho molto bene, con i suoi mezzi. L'unica cosa, ogni tanto si dimentica, dice delle cose e poi se le dimentica, quindi dopo torna sui suoi passi. È sulla via di diventare rincoglionito? Un pochino, non si ricorda più come una volta. Ho visto ieri criticava, dice non parlo mai di infortuni, poi dopo però ne ha parlato, oppure dice non parlo agli avversari. Poi questa è la cosa più divertente, secondo me, è che adesso si è messo anche contro Conte di nuovo. Hai visto ieri Conte gli ha risposto, altre scintille, ci sono vari fronti. L'Inghilterra, poi voglio dire, quest'anno è l'anno degli inglesi, 15 partite di Champions, 11 vittorie, 4 pareggi. Poi vediamo alla fine cosa rimane nella rete. Perché basta, ottobre... la Spagna basta. A me lo dici. A me lo dici che quando una spagnola perde faccio la ola. Onestamente, no, ma non per cattiveria, non perché non mi piacciono, ma no, semplicemente per cambiare. Perché basta con la dittatura. Bravo, basta con la dittatura. Diciamo sempre noi, basta, dai. Adesso diciamo sempre sono noi. Inglesi, dai. Noi? E va la Spagna, sarò pure corrispondente dalla Spagna. Dalla no. Spagna per la Gazzetta e anche per noi. Diciamo sempre noi, la saluto. Va sa bene. Che faccio? La saluto. Ciao va Filippo, bene. A presto. Chiama Cruciani, ciao. Chiamo ciao. Cruciani. Ciao Filippo Maria Ricci. Io chiamerei volentieri Cruciani, ma chiudiamo qua. Oggi riapriamo la sala cinesca domani alle 14. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia e io vi saluto. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!